Respiro. Buon pomeriggio e ben ritrovati a Respiro da Laura Bettini. È stato recentemente presentato il volume I cambiamenti climatici in Italia, evidenze, vulnerabilità ed impatti, realizzato dal Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, grazie al certosino lavoro di Sergio Castellari del Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici e Vincenzo Artale, che all'Enea si occupa di modelli climatici. Non è un manualetto divulgativo, anzi, dicono gli autori, è il contrario. Sentite cosa ci ha detto in apertura di intervista Vincenzo Artale. Questo libro si vuole distinguere da tutto il resto che è, cioè è completamente una questione completamente diversa. Per questo ci tengo a sottolineare questo aspetto, nel senso che il problema del clima è un problema non risolto, è un problema complesso e non può essere risolto da quelli che normalmente vanno in televisione ad affrontarlo. È chiaro. E quelli che vanno in televisione sono degli incompetenti. Io molte volte rinuncio a un pizzico di popolarità pur di mantenere dritto il timone verso la ricerca, certo. Esatto. Questo libro vuole essere questo. E tanto è vero, comunque, è stato a immagine e somiglianza dei report dell'IPCC. Quindi la struttura è quella di essere non un libro che spiega il clima, ma un assessment delle variabilità climatica in Italia. La novità del libro non è tanto nei risultati, che comunque sono assolutamente interessanti e originali, ma nel fatto che si è fatto raccogliendo i contributi di tutti i principali enti e ricercatori che si occupano di clima. Come io ho sottolineato nell'introduzione, è un gran challenge, così come c'è Teleton per la ricerca sui tumori, cioè sono ricerche che non finiscono mai, sono i grand challenge della scienza, come sulla fisica delle particelle, sulla scienza della vita, la biologia, il DNA. Ma allora, a chi è diretto questo libro? Sentiamo Sergio Castellari. Questo libro non è sicuramente un libro di divulgazione per il grande pubblico sul tema dei cambiamenti climatici. Sono altri libri scritti da grandi divulgatori scientifici in Italia che hanno fatto bene questo lavoro. Il nostro è un lavoro di sintesi della letteratura scientifica ed è rivolto agli esperti di altri settori e ai decisori politici italiani. Possono avere quindi un'informazione aggiornata sullo stato della ricerca, in particolare italiana, sulla nostra area, sui cambiamenti climatici. Fatti questi distinguo, abbiamo chiesto ai curatori del libro qual è la situazione italiana, ovvero che cosa emerge da questo libro. Emerge che l'Italia, diciamo il bacino mediterraneo, è un'area sicuramente sensibile per i futuri potenziali impatti dei cambiamenti climatici. Già risente di un riscaldamento degli ultimi 100 anni, di un innalzamento della temperatura media superficiale di circa un grado, come è stato evidenziato nel primo capitolo di questo libro. Le proiezioni climatiche mostrano un'accentuazione di eventi estremi come ondate di calore, come un possibile diminuzione della precipitazione media e anche maggiori rischi per la nostra biodiversità, sia la biodiversità marina che quella terrestre. Però non vorrei essere catastrofico, ecco, sicuramente quello che mostra il nostro libro mostra sì che ci sono già degli impatti in corso, però abbiamo molto tempo davanti a noi per poter agire. Infatti questo libro cerca di dare una motivazione ai decisori politici per iniziare ad agire nel campo dell'adattamento dei cambiamenti climatici. In questo libro noi non trattiamo in particolare delle politiche di adattamento e non trattiamo delle politiche di mitigazione, cioè della prevenzione degli effetti futuri dei cambiamenti climatici. Questi sono temi prettamente più di politica e non vengono trattati. Questo nostro libro è fondamentalmente concentrato sulla conoscenza scientifica. Qualche effetto dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo, ci dicono gli esperti, è già ben visibile. Sentiamo di nuovo Castellari. Sicuramente l'area alpina è quella che sta risentendo negli ultimi anni di gravi impatti dei cambiamenti climatici e abbiamo uno dei fenomeni in corso nelle Alpi che è il fatto di questa disintegrazione dei ghiacci, che è un proprio vero collasso della criosfera alpina. E questo si concretizza con l'estinzione di ghiacciai di minore dimensione, di frammentazione di ghiacciai maggiori, ad esempio, e quindi questo sicuramente sta creando un cambiamento nel sistema alpino, e in più ci sono anche impatti in corso sugli ecosistemi alpini, quindi cambi di specie vegetali, spostamenti, e questo va anche però a influire una catena anche sulla nostra società, quindi questi impatti sulle aree alpine hanno degli impatti sullo sviluppo socio-economico di quell'area, quindi il turismo invernale, il turismo estivo già adesso e nei prossimi anni si sta modificando, quindi un altro dei capitoli importanti, l'ultimo di questo libro, è proprio la stima dei costi di questi impatti su questi settori socio-economici, ed è una cosa che dobbiamo iniziare ad affrontare. Quindi l'arco alpino sicuramente lo ritengo, insieme chiaramente alle aree costiere, alle risorse idriche e alle aree a rischio di desertificazione, tra le aree più sensibili del nostro territorio. Sulle aree marine insiste invece Vincenzo Artale. E noi analizziamo e diamo un allarme del fatto che, per esempio, non tanto per esempio le caratteristiche fisiche del mare sono, per quanto siano, sono estremamente evidenti che il mare Mediterraneo in particolare si sta riscaldando, ma è soprattutto il riscaldamento del mare che impatto ha sul sistema biologico e biogeochimico, sui processi chiave che determinano quello che è stato fino ad oggi l'equilibrio naturale del sistema. E che impatto hanno? Per fare un esempio semplice, diciamo. Per fare un esempio, non lo so, ci sono stati i cambiamenti, quello che più è noto è il fatto delle specie aliene, cioè nel senso che delle specie che prima, che sono sempre entrate, si ricorda da quando Suez, no? È stata aperta, quindi alla fine dell'Ottocento, la comunicazione tra, che ne so, specie tropicali e il Mediterraneo, oppure attraverso il trasporto marittimo, erano sempre, c'era sempre la possibilità che invadessero il nostro mare, no? Il problema è che adesso stanno trovando le condizioni ambientali favorevoli perché permangano anche nei periodi invernali, per esempio, e che quindi emigrano dalle zone meridionali del Mediterraneo, che sono normalmente climatologicamente più calde, verso le zone più fredde, che ne so, del Mar Ligure, per esempio, che è un mare notoriamente, o del nord Adriatico, o del nord Tirreno, che sono un po' i mari caratterizzati da basse temperature. E questa è una dimostrazione, insomma, di quello. Per esempio, ci sono stati degli eventi nel 99 e il famoso 2003, questi picchi di calore, heat wave, i picchi di calore, che hanno, come dire, il corallo, per esempio. Il corallo è un indicatore estremamente sensibile a decimi di gradi di temperatura. Lui cambia la sua struttura, la sua fisionomia in base all'ambiente circostante, quindi soprattutto alla salinità e alla temperatura. E ci sono delle foto, mi sembra nel libro sono state riprodotte, proprio che sono sbiancati questi coralli, sono proprio. E poi soprattutto, come dite, la catena trofica, anche se è una brutta parola, è semplice. Determinate condizioni, per esempio, e questo c'è un forte intervento dell'uomo, non è tanto il clima, per esempio la cattura indiscriminata di determinate specie, per esempio, sta portando a che la specie primaria nel Mediterraneo sono le meduse. Cosa che negli anni Ottanta non era assolutamente vero, no? Che è un evento che riguarda il mare, ma riguarda anche noi che ci facciamo il bagno, poi. Esatto, come tante altre situazioni che poi alla fine hanno un impatto sulla vita, esatto, quotidiana. Nel senso che se diminuisce la biodiversità, diminuisce anche la specificità dell'ambiente circostante. E a questo punto ringraziamo i nostri ospiti ricordandovi il titolo di questo volume di cui abbiamo parlato oggi, I cambiamenti climatici in Italia, evidenze, vulnerabilità e impatti. Un volume, l'abbiamo appena sentito, in cui non si offrono ricette per il contrasto ai cambiamenti climatici. È cosa nota però che uno sforzo verso le energie rinnovabili può essere di grande aiuto. Si sta impegnando seriamente in questo settore la San Pellegrino. Lo fa sia nello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua San Bernardo a Garessio, provincia di Cuneo, che in Trentino a Cogolo di Peio. Sentiamo allora Stefano Agostini, amministratore delegato di San Pellegrino, che ci spiega esattamente in che ambiti, in che settori si sta impegnando il gruppo. La grande opportunità che abbiamo è quella di cogliere anche, di sfruttare delle energie che ci sono sul territorio, delle risorse che ci sono sul territorio. Nel caso di San Bernardo, che sono è posizionata, diciamo, nell'Alta Val Tanaro, quindi nella zona montana fra Appennino e Alpi Marittime, c'è la possibilità di utilizzare appunto l'energia eolica, e quindi abbiamo creato questo consorzio insieme alla società che si chiama MC2, abbiamo creato il consorzio San Bernardo Wind Energy, e grazie appunto a delle pale eoliche c'è la possibilità di usufruire di questa energia, quindi il 100% dell'energia consumata all'interno dello stabilimento San Bernardo oggi di sorgente eolica e quindi sorgente, diciamo, naturale. Avere questa indipendenza energetica come azienda, che cosa vi dà in più? Sì, ci sono due aspetti importanti. Uno è il fatto appunto di avere un minore o zero impatto, diciamo, sul territorio o comunque nell'ambiente, in quanto l'energia, come abbiamo detto, è da fonti rinnovabili. Il secondo aspetto importante è che la parte economica, perché comunque è energia prodotta sul territorio e quindi non abbiamo bisogno di tutta la distribuzione dell'energia, quindi c'è il bypass di tutta la rete distributiva dell'energia, che comunque ha un costo, e quindi abbiamo il vantaggio di usufruire, diciamo, di energia prodotta vicino allo stabilimento e quindi anche chiaramente di avere un vantaggio economico. Di sicuro la collaborazione ormai è ben avviata a Peio, dove invece di eolico parliamo di biomasse. Lì sì, avete sfruttato un'altra risorsa del territorio, sì, non il vento. Un altro buon esempio di un'altra risorsa del territorio, in quel caso Peio, che nella zona dello Stelvio è situata in un'area boschiva, quindi dove c'è l'esigenza di mantenere, quindi di pulire i boschi, quindi di raccogliere, diciamo, tutti i frammenti degli alberi, e sempre nella zona vicina a Peio c'è tutta la parte, diciamo, della coltivazione della mela e quindi dello scarto, della potatura degli alberi di melo. In questo caso c'è una grandissima risorsa che è il cippato, che è tutta questa parte, diciamo, piccole parti di legname che non vengono utilizzate normalmente sul territorio, e in questo caso vengono raccolte da una società che ha collaborato con noi a anche montare questo impianto di biomassa, e utilizziamo appunto questo cippato per generare l'energia per lo stabilimento di Peio, ma l'impianto ha una capacità che può dare anche energia, diciamo, alla comunità di Peio. Avete un po' il pollice verde, insomma, in azienda, direi. Ma questo è un progetto, un programma che coinvolge le nostre persone e dà molta motivazione, perché tenga presente che chiaramente il nostro business è quello di imbottigliare e distribuire l'acqua minerale, che è un prodotto fantastico, perché è un prodotto naturale, però tutto quello che è intorno deve essere ugualmente naturale, quindi chiaramente abbiamo delle attività. Sulle bottigliette non avete ancora inventato niente di particolare, quelle di plastica, intendo. Sì, abbiamo altri progetti. Sicuramente in futuro potrebbero esserci delle soluzioni anche a livello di packaging differente. Noi siamo coinvolti molto sull'incentivazione del riciclaggio, perché la plastica, il PET che viene utilizzato per l'imbottigliamento di acqua minerale, è una plastica, diciamo, pulita, nel senso che non può essere riciclata. Manca ancora un po' la cultura del riciclaggio in Italia. Quindi voi com'è che siete coinvolti in questa sensibilizzazione? Ma allora, adesso noi comunichiamo sulle nostre bottiglie, nelle nostre comunicazioni, incentiviamo e cerchiamo di educare, abbiamo vari progetti in Italia, anche nelle scuole, di educare le persone alla raccolta differenziata, diciamo, delle plastiche. Questo è il primo passo. Secondo passo è quello di lavorare sul riciclaggio e quindi sul riutilizzo della stessa plastica per futuro imbottigliamento. In Italia non c'è ancora la legge che ci autorizza per l'utilizzo del PET riciclato, cosa che invece avviene in altri paesi. Siamo in attesa, perché comunque è in discussione. Probabilmente a breve anche in Italia si potrà utilizzare delle percentuali dal 25 al 50% di PET riciclato per lo stesso per la produzione poi delle stesse bottiglie di plastica. Questo per noi è un percorso importante. Chiaramente c'è un percorso dove dobbiamo educare il consumatore, dobbiamo incentivare anche poi tutte le aziende del settore che lavorano in questo processo. Le bottiglie di plastica vengono prodotte da voi o voi le acquistate? No, noi produciamo il granulato del PET, sì. Poi facciamo noi nelle nostre fabbriche la bottiglia. Sarebbe un vantaggio direttamente per voi, proprio, se si potesse riciclare. Ma un vantaggio dal punto di vista economico? No, perché comunque non c'è un vantaggio economico dal produrre diciamo dal vergine o dal riciclato, però da un punto di vista di impatto sul territorio chiaramente è una cosa completamente differente, cioè riuscire ad avere anche il riciclaggio delle plastiche vuol dire comunque utilizzare meno materia prima e quindi un minore impatto sul territorio. Su tutto, sì. Sì, a partire da lontano, da dove si prende la materia prima. E a questo punto è veramente tutto. Grazie a tutti voi per essere stati con noi in questa puntata di Respiro. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa e le altre puntate sul nostro sito internet www.radio24.it, nella pagina dedicata al programma Respiro. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto con Radio 24.